cominciamo con il dare naturalmente il contatto telefonico, che è lo 0649 1750. Il sito internet anche per lo streaming è www.ondarossa.info. L'indirizzo email di questa emittente è ondarossa@ondarossa.info. Per quanto concerne questo spazio musicale, esiste anche uno spazio Facebook che è Prove Tecniche di Trasmissione /Disorder. Domani ci sarà come al solito la playlist e la registrazione di questo programma, che comparirà ovviamente anche nel sito della radio stessa. Salutiamo Marta Isa Itual dalla Lombardia, se non sbaglio, quel di Udine, Lucia Cagliazza alias Lupsi, che ascolteremo anche in questa trasmissione. La Sardegna di Nicola Locci alias Stigmate, Jean-Claude Berthaud dal paesino della Val d'Aosta. Abbiamo anche Pioggia d'Ambra con Manu Fais dall'Umbria. Antonio Zovet, fedelissimo da Firenze. Ricordiamo naturalmente anche la possibilità di sottoscrizione per Radio Onda Rossa usando il conto corrente postale 61 80 40 01, intestato Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, Vere Volsci 56 00185, Roma. Nel sito ci sono anche le modalità più elettroniche. Detto ciò, si può iniziare con l'ultimo lavoro di Der Blaue Reiter, e questo è il terzo passaggio di questo United Yet Divided. Un album che, come al solito, privilegia le atmosfere neoclassiche, martial, ma anche qualche assonanza col neofolk. E infatti con il neofolk iniziamo questa sera con questa traccia dal nome The Hungarian Revolution. E poi Death to the Tyrant, quest'ultima. Ricordiamo, questo album, peraltro, parla di diversi aspetti dell'Europa dalla fine della Seconda Guerra Mondiale in poi. Quindi si parla di Ungheria e della Spagna sotto il dittatore Francisco Franco. made us feel stronger, no matter the past. The Hungarians made the rest of Europe stronger. They laid it hard for the rest. Soon other followed, refused to obey no longer. To stand against your oppressors is the best. Horas de la madrugada del 20 de noviembre de 1975, en la residencia sanitaria La Paz de la Seguridad Social, en Madrid, dejó de latir el corazón de Francisco Franco Bahamonde, caudillo de España, generalísimo de los ejércitos y jefe del Estado español. Tan pronto como fue comunicada la noticia, las banderas ondearon a media asta en todos los edificios públicos y en las embajadas de los países con que España mantiene relaciones diplomáticas. Un bellissimo pianoforte caratterizza gran parte di questa The Death of the Tyrant, la morte del tiranno, Spain under Francis Franco. Brano dei Der Blaue Reiter, che sono anche di Barcellona, quindi catalani. Con Satoris Alanort, tastiere e compositore principale, Cecilia Biargo, voce e l'immancabile e decisivo apporto di Lady Notte al violino. United Yet Divided, così epico, sinfonico, splendidamente neoclassico. Un album che ci siamo ascoltati e che ascolteremo in tutta la sua interezza, in tutti i suoi 8 brani. Oggi abbiamo mandato il 5° e 6° brano. E questa perla che sta andando sotto la mia voce, che è la title track, la manderemo la prossima settimana. Mentre ora arriviamo qui in Italia e lo facciamo con Father Murphy, che abbiamo già conosciuto qualche settimana fa. E questa volta li ritroviamo con un album, un lavoro del 2008, sì esatto, dal nome A Hand He Told Us to Turn to the Sun. Come al solito si muovono nell'ambito del rock psichedelico, delle influenze ritualistiche ed oscure, caratteristiche portanti del suono di Father Murphy. Eccola qua, Eyes of No More Rage e Go Sinister. Summer of 61. Circa 15 anni di carriera per Father Murphy e sembrerebbe che con l'album dell'anno scorso che ci siamo ascoltati, Rising Requiem for Mother Murphy, sia calato il palcoscenico e quindi la parola fine per questo progetto che si può dire anche storico, un po' ritualistico, un po' di psichedelia. E questa sera ci siamo ascoltati questo vecchio lavoro del 2008 che usciva per la Boring Machines, una gloriosissima realtà trevigiana, And He Told Us to Turn to the Sun. Chiara Lee e Reverend Freddie Murphy sono i due compositori e componenti di questi Father Murphy. Stasera avremo molta musica italiana e quindi adesso è il turno di Lucia Cagliazza in arte Lupsi, della quale abbiamo anche delle tracce che vanno al di là dell'album Eve, che se non ricordo male è uscito nel 2018 o quantomeno all'inizio del 2019. Una serie di tracce che chissà se avranno poi il destino di essere sistemate e collocate in un album prossimo venturo. Per adesso ce l'andiamo semplicemente ad ascoltare, si chiamano Surrender e Under the Rain. incredibile la capacità compositiva e tecnica di Lucia Cagliazza alla chitarra. Chitarra trattata con molti reverberi che vanno a comporre delle splendide strutture armoniche che prendono un po' dalla tradizione, per esempio, Pink Floydiana o la scuola di Canterbury da un lato, il post rock e chissà pure qualche sprazzo di Stockhausen e dintorni. Fatto sta che si pone nelle avanguardie più interessanti degli ultimi anni, un progetto questo di Lupsi che ho conosciuto grazie a Raffaele Pezzella, che collabora anche in sede di cura del suono delle ultime produzioni di Lupsi. Della quale aspettiamo appunto il secondo lavoro che uscirà a breve, con Simone Serafini al contrabbasso. Ancora Italia, Raffaele Pezzella lo abbiamo nominato e guarda caso abbiamo qui il suo Phantoms, ultimissimo lavoro che esce come Sonologist ed esce ovviamente per la Nice Place Sounds, questa etichetta storica che va a curare anche delle produzioni provenienti da terre assai lontane, anche e soprattutto grazie alle splendide compilation che compone Raffaele. Si chiama dunque Phantoms, come abbiamo detto, e trattasi di voci rubate dall'ambiente, voci che risiedono nell'inconscio. E quindi, come molti dei lavori, se non tutti, di Raffaele Pezzella, ci si può perdere in queste strutture così profonde. Non rimane che andarci ad ascoltare questi due brani, ossia Fragments of the Winter with a Few Other Cards to Play e la settima traccia An Index of Mass Philosophy. Thank you. Grande, grandissimo album di Sonologist di Raffaele Pezzella, si chiama Phantoms. Notevole questa traccia che è finita adesso, un bellissimo quasi omaggio a, per esempio, a Luciano Berio, a Luigi Nono, quella tradizione che a noi piace molto. E sì, come dice Lupsi, effettivamente un fantastico brano che conferma Raffaele Pezzella come ottimo compositore. Uno dei lavori migliori per Sonologist, lo ricordiamo, esce attraverso la Unexplained Sounds label. Da menzionare anche a Late Tower Records, etichetta parallela alla suddetta Unexplained Sounds. Per coincidenza, questa sera si alternano molte cose italiane, qualcosa della Spagna. Abbiamo iniziato con la Barcellona di Der Blaue Reiter e adesso arriviamo a Madrid con Da Sein, questa nuova avventura che incide attraverso la Gala Corro, che invece è un'etichetta tedesca, come qualcuno si ricorderà. Secondo lavoro per loro e questa sera, nel solco della Cold Wave e dell'Industrial, ci ascoltiamo Marasm, Half Fate the Beauty for Ashes. Nazywam się Marasmem, przyszłam. Benvenuti anche a Maya che ci sta ascoltando dalla Sardegna, e anche a Sisto Palombella, il maestro Sisto Palombella. Benvenuti a loro. Ancora da Sein, da Madrid, da Mirror Touch. Sono le ore 22, stanno per scattare adesso. Queste ultime note appartengono agli spagnoli Da Sein, loro provenienti da Madrid, Fernando Paino e Cas Visions, invece cantante di origine polacca. Due album al loro attivo e questo è Mirror Touch del 2019, naturalmente anche questo per la Galla Corro, ricordo gloriosa label fondata da House Arafna.